Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salvadanaio. Primo luglio si apre un nuovo semestre, semestre nuovo, problemi vecchi. Oggi ritorniamo a parlare di risparmio e di investimenti. Avete mai sottoscritto un prodotto di investimento per poi scoprire che non faceva per voi, che non era appropriato alle vostre esigenze, che non soddisfaceva i vostri propositi di rendimento, che pure era troppo costoso? Diciamo che capita abbastanza frequentemente, anche perché l'andamento degli ultimi anni dei mercati finanziari ha lasciato la mare in bocca a molti piccoli investitori che magari hanno cavalcato un determinato settore per poi scoprire che non era quello che faceva al proprio caso, al proprio profilo. Però quello che si poteva fare fino ad ora era magari di lamentarsene prima un po' con se stessi per essere stati un po' superficiali o per avere avuto delle aspettative troppo alte. O poi magari lamentarsi con il proprio consulente. Oggi si può fare qualcosa in più, a patto però che ci si accorga in tempi molto rapidi di non avere fatto l'investimento giusto. Sulla base di quanto ha stabilito recentemente una sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, la sentenza è la numero 13905 di quest'anno, è stato riconosciuto all'investitore il più ampio diritto di recesso tutte le volte in cui si dà esecuzione ad un servizio di investimento. Chiaramente la Cassazione ha sentenziato sulla base di un caso concreto, sollevato con un ricorso proposto da una banca italiana che si opponeva ad una citazione in giudizio di un risparmiatore di Palermo che aveva sottoscritto obbligazioni Giacomelli su suggerimento di un promotore finanziario. Prima di tutto noi oggi in trasmissione ricostruiremo questo caso, ma soprattutto ci chiederemo cosa succede ora con questa sentenza, che portata ha questo provvedimento, come ci si poteva comportare prima quando si aveva un ripensamento su un investimento e cosa si può fare adesso. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta con noi questa mattina l'avvocato Luca Zitiello dello studio Zitiello Associati. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E poi il presidente dell'ANASF, l'Associazione dei Promotori Finanziari, Maurizio Buffi. Buongiorno. Buongiorno. E benvenuto anche lei, anzi bentornato. Oltre al numero verde per gli ascoltatori c'è anche l'opportunità di intervenire con dei messaggi alle 349-238-6666 oppure scriveteci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Ci trovate, il profilo è quello della trasmissione, su Facebook e anche su Twitter. Prima di tutto questo però vediamo un po' cosa sta succedendo oggi sui mercati finanziari. La giornata era partita molto bene per i listini del vecchio continente, in alcuni casi si sfiorava il punto percentuale di rialzo. Poi c'è stato un arretramento a metà mattinata in concomitanza con la divulgazione del dato sulla fiducia dei manager d'impresa di Italia, Francia, Germania e dell'Europa. Il dato si attesta ancora sotto i 50 punti, una statistica che indica che l'economia europea è ancora in contrazione e non in espansione. Poi però c'è stato un ripensamento ed è di nuovo tutto piuttosto positivo il tenore dell'andamento, appunto il tenore delle borse europee. E svetta su tutte Piazza Affari, Milano guadagna l'1,14%, bene Parigi più 0,85%, Francoforte più 0,56%, Londra più 0,74%. Oggi contrastate le borse asiatiche, il Nikkei a Tokyo ha chiuso con un rialzo dell'1,28%, era chiusa per festività Hong Kong, quindi niente rilevazione dall'Hang Seng. Sulla parità la borsa di Shanghai, quindi i mercati di quell'area che ancora guardiamo con grande attenzione perché si teme una stretta di liquidità, un problema appunto per il settore bancario, anche se la Banca Centrale di Pechino ha rassicurato più volte negli ultimi giorni. A Milano vediamo un po' i titoli che stanno sostenendo Piazza Affari: Mediobanca più 5,30%, Diasorin più 4,27%, Saipem più 4,56%, Prismian più 3%, Luxottica più 2,45%. In discesa invece, dopo il volo delle ultime settimane, Mediaset meno 1,93%. E Pirelli in ribasso di un punto percentuale. Segnaliamo il più 26% dei titoli RCS, che sono però fermi dalle contrattazioni dalle 9,53, come era plausibile appunto attendersi. Fiat, come ricorderete, nel fine settimana ha reso noto di aver acquistato sul mercato un pacchetto di diritti per la sottoscrizione di nuovi titoli del gruppo, in corso l'aumento di capitale, e quindi questo comporta appunto questo exploit del titolo del gruppo Rizzoli. Direi che la borsa la possiamo lasciare, andiamo al tema di stamattina: pentirsi di un investimento, si può rimediare? Vi è mai capitato di pentirvi di aver fatto qualcosa anche pochissimo tempo dopo? Capita. Spesso quando le scelte sono compiute d'impulso e sull'onda dell'emotività. Ma cosa succede quando la scelta di cui ci pentiamo riguarda l'investimento del nostro denaro? Una recente sentenza della Cassazione estende il margine entro il quale un investitore può rinunciare alla sottoscrizione di un'attività finanziaria che gli è stata proposta da un intermediario. Questo diritto di recesso si può esercitare entro 7 giorni dall'acquisto del prodotto e vale per tutti i casi in cui la proposta di un promotore finanziario arriva al cliente fuori dalla sede di una banca. La possibilità di ripensarci entro la prima settimana è quindi garantita in caso di collocamento di fondi comuni, derivati, nei contratti di gestione patrimoniale, nella negoziazione e ricezione di ordini e quindi quando si comprano azioni, obbligazioni e altri titoli. L'intermediario che vuole collocare fuori sede anche prodotti di questo tipo deve assumersi maggiori rischi, tra cui quello che il cliente possa rinunciare. La legge tutela quindi il risparmiatore, in particolare nelle situazioni in cui una proposta potrebbe essergli stata fatta senza lasciargli troppo tempo per pensare. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Se volete intervenire in diretta, vedo già pronto Giorgio da Roma, che contatteremo fra qualche istante, perché ci racconta che ha fatto un investimento su un prodotto derivato che gli era stato proposto da un promotore finanziario, quindi forse ci sta pensando, perché evidentemente è un prodotto un po' troppo complicato per i suoi gusti e per le sue esigenze. Ripartirei però dal caso che è al centro della nostra trasmissione di oggi. Avvocato Zitello, ancora buongiorno. E allora, come è arrivata la Corte di Cassazione nelle sezioni unite, appunto, a formulare questa sentenza? Perché il caso a cui si fa riferimento, per la verità, è un caso che si è manifestato molto indietro nel tempo, non è recente, ed addirittura si parla di un promotore che attraverso il suo promotore finanziario, di un risparmiatore che attraverso il suo promotore finanziario aveva acquistato obbligazioni di una società che è andata in bancarotta, la Giacomelli. Sì, infatti il caso nasce dall'acquisto di un titolo da parte di un risparmiatore, in questo caso Giacomelli, effettuato fuori sede per il tramite di un promotore finanziario. Ci dice subito che cosa vuol dire fuori sede, perché si tratta fuori da un locale, fuori casa, che cosa significa nel gergo finanziario? Nel gergo finanziario, secondo la normativa di riferimento, è fuori dalla sede della banca o dell'intermediario, dalla sede principale oppure dalle sue dipendenze, in pratica fuori dagli cosiddetti sportelli bancari. Quindi sono i casi in cui il promotore va a casa del cliente oppure riceve il cliente presso l'ufficio del promotore, e il più delle volte l'ufficio del promotore non è una dipendenza dell'intermediario. Quindi questi sono i casi principali. Sono invece esclusi i casi in cui l'ordine venga conferito, quindi allo sportello, oppure venga conferito a distanza, ossia tramite internet, con trading online, oppure al telefono, oppure via fax, per esempio. Allora, ritornando a questo caso, quindi questo signore aveva investito, su suggerimento di questo promotore, in obbligazioni Giacomelli. Questo investimento era stato fatto non nella sede della banca? No, era stato fatto fuori sede. Ecco, quindi praticamente che cosa è successo? Che la società è andata in default, come tra l'altro questo è un caso dell'inizio degli anni 2000, periodo in cui ci hanno allietato tante notizie di questo genere. Che cosa è successo quindi? Perché questo risparmiatore ha fatto questo ricorso? No, anzi, sì, in realtà ha citato in giudizio la banca, che a sua volta poi ha fatto ricorso. Esatto, perché il risparmiatore aveva nell'ambito del giudizio sollevato una serie di eccezioni, tra le quali... Sollecitato da un bravo avvocato, immagino. Immagino. Tra le quali il fatto che ha sostenuto che l'articolo 30,6 del TUF, cioè del... Testo unico del bancario, del mercato finanziario. Del mercato finanziario, che disciplina il diritto di pentimento, quindi parliamo di una norma che già prevede il diritto di pentimento, ha sostenuto che il diritto di pentimento si applicasse anche al suo caso. La norma prevede che il diritto di pentimento ci sia per i contratti di collocamento e per i contratti di gestione patrimoniale. Quindi la norma limita, ha sempre limitato il diritto di pentimento alla fase di collocamento del titolo. Quindi qualora quel promotore avesse suggerito a questo risparmiatore un prodotto diverso... In fase di collocamento del titolo, cioè quando il titolo nasce e viene collocato presso il pubblico, quindi in fase di emissione, lì pacificamente si è sempre applicata la clausola, la norma, i moduli lo prevedono, così lo prevedono per i collocamenti di titoli, lo prevedono per i collocamenti di fondi, non c'è nessuna novità su questo, la novità risiede nel fatto che in questo particolare caso il risparmiatore non ha sottoscritto in fase di emissione Giacomelli, ma l'ha comprata successivamente. Quindi la Cassazione, quindi l'avvocato ha sostenuto una più ampia portata dell'articolo 30,6. Sulla base peraltro di alcuna giurisprudenza di merito, alcuni tribunali e alcune corti d'appello italiane che in effetti davano questo tipo di interpretazione. La maggior parte della giurisprudenza, Cassazione compresa, in realtà riteneva che si dovesse condividere un'interpretazione restrittiva della norma. E quindi l'avvocato del risparmiatore ha coltivato fino in Cassazione il ricorso e la prima sezione della Cassazione, visto il dibattito giurisprudenziale, la non uniformità dell'interpretazione, ha deciso di rimettere, non ha deciso lei, ma ha deciso di rimettere la questione alle sezioni unite, che sono, hanno proprio questa funzione, no? Cioè di garantire la uniformità dell'interpretazione. Le sezioni della Cassazione si sono poi pronunciate a seguito dell'ordinanza di rinvio e hanno deciso, hanno diciamo sposato l'interpretazione più ampia della norma e quindi ha stabilito il principio di diritto secondo il quale il diritto di pentimento non si applica solo, come è stato fino adesso, ai casi di collocamento di titoli e ai contratti di gestione patrimoniale, ma anche alla compravendita di titoli se effettuati fuori sede in ragione del cosiddetto effetto sorpresa a cui il risparmiatore è esposto in ragione dell'attività promozionale svolta dal promotore finanziario. Adesso cercheremo di capire che portata ampia ha, in termini appunto generali, questa sentenza, ma in questo caso, avvocato Zitiello, come verrà risarcito questo risparmiatore? Come viene anche calcolato il risarcimento complessivo, visto che Giacomelli non sono più negoziate, la società è fallita, quindi voglio dire c'è anche da stabilire. Ecco, questo è l'effetto drammatico della sentenza e molto forte della sentenza, perché se io amplio la portata della norma, praticamente dico che i moduli con cui è stato acquistato il titolo Giacomelli avrebbero dovuto contenere, a pena di nullità, questa clausola in cui si avverte il cliente che il cliente ha questo diritto di pentimento nei 7 giorni. Chiaramente nel caso di specie quei moduli, quella clausola non la contenevano, perché evidentemente tutta l'industria del risparmio aveva sempre sposato l'interpretazione prevista dalla legge e peraltro confermata più volte dalla Consob ultimamente nel 2012, non più tardi di un anno fa, nel 2012. Per cui la Cassazione quindi sconfessa anche un po' la Consob. No, dichiaratamente la sconfessa. Ecco. Peraltro, come dire, se valutiamo poi la qualità dell'estensore un ex commissario Consob, è un altro aspetto curioso anche questo, poi ci ritorneremo. Quindi ritornando appunto alla portata del provvedimento. E quindi la portata è che siccome l'interpretazione estensiva, quel modulo non conteneva la clausola, l'acquisto diventa in assenza della clausola nullo e quindi il cliente ha diritto non al risarcimento ma alla restituzione del capitale inizialmente versato, investito senza nessuna attualizzazione, certo. Allora, Maurizio Bufi, presidente dell'ANASF, è una questione estremamente complicata, abbiamo capito che la portata è enorme, però in realtà stiamo cercando di spiegarla in termini semplici e non è semplice affatto. Mi chiedo però appunto che tipo di riflessione hanno fatto i promotori finanziari alla luce di questa sentenza a sezioni unite, dicevamo, della Cassazione, perché a questo punto non so se molti promotori finanziari saranno scoraggiati a suggerire questi investimenti ai propri clienti, magari ci ripenseranno adesso prima di suggerire di investire, non lo so, in BOT e BTP, non nel giorno del collocamento magari, ma sul mercato secondario, farlo appunto in un secondo momento. Che ne dice? Sì, intanto mi faccia fare da ascoltatore i complimenti all'avvocato Zitiello, che saluto, perché ha reso in un modo molto semplice dei concetti che all'apparenza e anche nella sostanza sono un pochino articolati. Detto ciò, Detto ciò, quali sono le considerazioni che mi sento di fare? Beh, la prima è di ordine generale. Qui siamo in presenza, appunto veniva ricordato poco fa, di una sentenza a sezioni unite e quindi con una rilevanza particolare per quello che riguarda l'ordinamento. E quindi ne prendiamo atto. Noi non siamo abituati, certo, prima come cittadini e poi come operatori, a giudicare le sentenze quando queste hanno o possono avere una portata o degli effetti ritenuti dannosi o comunque problematici. Quindi questa cosa va rispettata. Aggiungo anche che posso capire il senso nella misura in cui si ritiene di dover far prevalere la protezione e la tutela del risparmiatore nei confronti degli operatori in generale. Detto questo però aggiungo che mi lascia anche al pari del rispetto che viene che deve essere rappresentato nei confronti di una sentenza, altrettanto giustificato e giustificabile è l'atteggiamento critico o comunque la perplessità. Perché lo dico? Perché sostanzialmente qui siamo in presenza di un'affermazione di principio, appunto, secondo la quale bisogna riallineare questa che sembrerebbe essere una sorta, appunto, di disallineamento tra domanda e offerta nel momento in cui l'operatore, in questo caso il promotore finanziario, nei confronti del proprio cliente o potenziale cliente adotta una sorta di effetto sorpresa, è stato definito da vari operatori, su cui francamente io ho tutte le più ampie riserve del caso. Perché lo dico? Perché in realtà soprattutto nell'ultimo decennio, ma prima ancora, figuriamoci ai nostri giorni, tutta l'attività degli operatori qualificati, al di là del fatto che alcuni episodi possono anche essere, come è questo il caso, presi in considerazione per la loro valenza, ma nello specifico, ma tradurli poi addirittura in una logica estensiva, che oggettivamente qualche problema all'industria potrebbe crearlo, ci lascia qualche forte perplessità. Queste sono le due considerazioni che mi sento di fare. Lo dico perché tra l'altro un po' tutto il mondo, il settore intendo dire, sta andando proprio nella direzione di valorizzare il ruolo degli operatori qualificati anche attraverso e soprattutto, mi verrebbe da dire, attraverso l'offerta fuori sede, e quindi introdurre questi elementi potrebbe essere, non mi riferisco al passato su cui evidentemente se ci saranno delle ripercussioni saranno gestite dagli intermediari, potrebbe avere qualche ripercussione per il futuro. Certo, anche perché l'offerta fuori sede, esatto, l'offerta fuori sede in qualche maniera faceva anche del promotore finanziario quel consulente finanziario a 360 gradi che gli ha fatto cambiare anche un po' pelle, no, negli ultimi anni, visto che è sempre stato contestato. E infatti, se mi consentite, questo è un caso che nasce, una vicenda che nasce su un caso come Giacomelli, caso noto come veniva ricordato negli anni 2000, ma che certo non ha caratterizzato l'operato delle reti di promotori finanziari, che invece negli anni si sono distinte soprattutto per la loro capacità di diversificare i portafogli della clientela, certo, di tenerli sostanzialmente al riparo, ove possibile e fin dove possibile, da rischi inattesi, e quindi sostanzialmente di rendersi sempre più nelle condizioni di fornire e di avere un approccio consulenziale. Allora, ci fermiamo, adesso abbiamo i suggerimenti per chi, no, non ci abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, abbiamo la prima pausa pubblicitaria, i suggerimenti per chi è in viaggio sono alle 12.45, ma direi che siccome ci sono già tre ascoltatori pronti ad intervenire che vogliono sapere qualcosa di più rispetto al tema di oggi, direi che possiamo cominciare a sentirne uno che era il primo che aveva annunciato, Giorgio da Roma, e poi andiamo in pubblicità. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica. Allora, mi sembra di aver capito che il diritto al pentimento è già incluso nei prodotti che vengono venduti in fase di collocamento. È già una facoltà che ha il risparmiatore, diciamo. Sarebbe dovuta essere già sul contratto di un prodotto che io ho acquistato circa, mi sembra, 3 anni fa, 3 anni e mezzo fa. E che non è andato a buon fine. Era un prodotto che per me era nuovo e penso siano dei derivati, cioè mi è stato proposto come un certificato da Allianz Bank, no? Da un promotore dove io ripongo fiducia per conoscenza antica. Vabbè, insomma, nella diversificazione del suo risparmio ha pensato di suggerirle anche questo, che era un po' più complicato delle sue aspettative. Quindi Giorgio, che cosa è successo? Era insoddisfatto perché voleva disinvestire? Allora, il concetto è che io avevo interpretato di fronte alla sua spiegazione del prodotto, la questione come una scommessa. Quasi si era offeso, risentito da questo termine, e poi ho subito una perdita di quasi del 50% a scadenza. A quel punto lui ha confermato che forse avevo ragione io, che era una scommessa. Vabbè, insomma, oggi la situazione qual è, Giorgio? Cosa vuole fare o cosa ha fatto? Perché devo chiudere. La perdita è acquisita. Ho provato a chiedere ad Allianz Bank, pensavo che Allianz Bank proponesse un rientro in qualche maniera, cioè un prolungamento di questo certificato, di questo prodotto, magari perché era basato su una soglia dell'indice di borsa. Sì, sì, infatti, sì, ci sono molti prodotti di investimento di questo tipo che chiaramente riconoscono un rendimento sulla base di determinati andamenti dei mercati finanziari a cui sono agganciati. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buongiorno a tutti da Deborah Rosciani. Il tema che abbiamo scelto per questo primo luglio è un po' complicato, però riguarda la vita di noi tutti come investitori, e molto spesso è capitato a molti dei risparmiatori, appunto, che ci ascoltano, di aver fatto magari delle scelte di investimento non del tutto appropriate, magari un po' su sollecitazione un po' forte magari di qualche consulente, oppure perché così nel miraggio di un rendimento molto interessante abbiamo scelto un prodotto di investimento che poi nel giro di due giorni ci è sembrato, abbiamo capito, fosse un po' troppo complicato per i nostri gusti. Insomma, questo per dire che cosa? Che c'è una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che è stata emessa proprio pochissime settimane fa, che nella sostanza ha riconosciuto il diritto di ripensamento nel giro di 7 giorni su una determinata tipologia di investimenti, quelli che si fanno, come dire, fuori sede, se sono sollecitati da un consulente finanziario, e quindi insomma ci si può ripensare. E però adesso speriamo che tutto questo non provochi un maremoto di ripensamenti, perché sennò l'industria del risparmio si troverà anche in qualche difficoltà. Per spiegare la portata di tutto questo, questa mattina l'avvocato Luca Zitiello e Maurizio Buffi, presidente dell'ANASF, l'Associazione dei Promotori Finanziari. Volevo subito commentare un caso che ci è stato posto da un ascoltatore nella prima parte del programma, Giorgio da Roma, che su appunto suggerimento di del suo consulente finanziario ha sottoscritto un certificato. Ce ne sono tanti in circolazione, sono in genere prodotti di investimento i cui rendimenti sono agganciati ad altri, a determinati mercati, per cui sono un po' sofisticati, sono alla stregua anche di derivati. 3 anni fa ha una perdita del 50% del capitale iniziale investito. Oggi si chiede se può fare qualcosa. Avvocato Zitiello, alla luce del tema che stiamo affrontando questa mattina, questo ascoltatore che cosa può fare? Gli può venire in aiuto questa sentenza della Cassazione? Beh, gli potrebbe venire in aiuto nel caso in cui avesse appunto acquistato il certificato di deposito attraverso il promotore fuori sede e il modulo non contenesse al suo interno la clausola di avvertimento del diritto di pentimento. Essendo un certificato di deposito, penso che sia il caso di collocamento, quindi il caso in cui quella clausola era contenuta. In quanti giorni veniva contemplata in questi casi? 7 giorni. Ah, anche in questo caso, quindi sì, sette giorni già esistevano. Esistono da tantissimo tempo, prima ancora del TUF. È una vecchia norma che poi è stata ripassata all'interno del TUF. No, gliel'ho chiesto perché non per tutti i prodotti, per esempio per le polizze vita c'è una possibilità di esercitare un diritto in 30 giorni, sì, c'è il codice delle assicurazioni, c'è un'altra cosa. Apposita, esattamente. E quindi questo ascoltatore cosa può fare? Probabilmente può controllare la documentazione che ha sottoscritto al fine di verificare in quel caso se era contenuta la clausola di diritto di pentimento o meno. Allora, Maurizio Buffi, le volevo chiedere per curiosità, ma le risulta che fra gli associati ANASF, fra i suoi migliaia di promotori finanziari, c'è già qualcuno che ha avuto a che fare con qualche risparmiatore che dopo aver letto questa novità sui giornali è andato a protestare e a minacciare magari di fare qualche ricorso per esercitare questo diritto di recesso? Ma guardi, per quanto mi consta, vista la platea così ampia, oltretutto degli associati, no. Ma mi sembra di poter dire che, tra l'altro, il caso in specie che veniva raccontato dal nostro ascoltatore, sì, ha tutte le caratteristiche per trattarsi probabilmente di un prodotto cosiddetto strutturato, il cui esito a scadenza è agganciato a dei cosiddetti sottostanti e quindi di natura derivativa. Ma detto ciò, qui appunto il tema è di carattere più generale, perché la grande preoccupazione, o grande o piccola che sia, è che per tornare alla sentenza, è che un aumento di tutele del risparmiatore, che come ho detto per operatori qualificati che ritengono di essere tali o comunque di divenire nel tempo sempre più operatori di riferimento della clientela, sia acquisita sia quella potenziale, è un fatto di per sé utile ed importante. Buono, certo. Perché accresce la consapevolezza di chi prende. Sì, magari li mette anche un po' più al sicuro quando fanno i loro investimenti. Perfetto. Sanno detto che c'è anche però, questa tutela. Questo può creare degli effetti distorsivi, no? Perché evidentemente quello su cui io insisto, in quanto un passaggio che trovo poco convincente per certi aspetti, è di voler enfatizzare, come se da questo punto di vista il legislatore avesse voluto essere più realista del re, il cosiddetto effetto sorpresa. Ora, l'effetto sorpresa può avvenire indifferentemente in un luogo più piuttosto che in un altro, cioè non dipende dal fatto che è fuori sede, nell'accezione che ne ha dato l'avvocato Zitiello, oppure in sede. Anzi, molto spesso non c'è peggior consigliere di se stesso che è il proprio risparmiatore, il cosiddetto fai da te. Quindi voglio dire, da questo punto di vista, attenzione a enfatizzare questi aspetti. Ora la sentenza lo fa, ne prendiamo atto. Non credo che questo abbia delle ripercussioni così importanti nel passato, per quello riguarda il passato, ma staremo a vedere, perché potrei anche essere smentito rispetto a questo. Credo che in ogni caso qui noi dobbiamo sforzarci sempre di più di valorizzare il ruolo di operatori qualificati e nel fare questo cercare di far capire anche a chi prende queste decisioni che le decisioni vanno prese insieme e che quindi va accresciuta la consapevolezza anche del lato domanda, non solo lato. Magari offerta. Sforziamoci di fare qualche domanda in più prima della firma del contratto di investimento, piuttosto che andare a guardare nelle pieghe del contratto se c'è la clausola di facoltà di recessione, che è pure importante, ci mette in sicurezza, come dicevo, però magari è meglio dire un no prima al consulente, prima di mettere la firma e andare a così rovistare tra le pieghe del contratto in un momento successivo, Presidente. Sì, è esattamente questo. In tempi non sospetti, io ricordo proprio anche nella sua trasmissione di aver richiamato il tema del rapporto fiduciario, che non è un atto fideistico di per sé, ma è un percorso che nel tempo si caratterizza attraverso la capacità del consulente di interpretare i bisogni del suo interlocutore e la capacità dell'interlocutore di riconoscere i propri bisogni. Sulla base di questo fare domande, ricevere risposte da ambo le parti. Questo è chiaro che accresce la consapevolezza della decisione. Magari e oggi minimizza il rischio. Oggi con questa sentenza c'è la possibilità di fare una domanda in più. Ma senti un po', se fra qualche giorno dovessi scoprire che questa cosa non mi convince, dopo che ti ho fatto tutte le domande, se ci fosse una sorpresa, avvocato Zitiello, questa facoltà la posso esercitare. È proprio questo il punto. Bisogna essere molto critici nei confronti di questa sentenza, che sembra dare tutela agli investitori, in realtà, a mio modo di vedere, la toglie tutela, perché li priva sostanzialmente di una facoltà operativa. Mi spiego meglio. Se noi vogliamo, questa sentenza è sostanzialmente sbagliata, perché è inapplicabile. La inapplicabilità dimostra la non correttezza del ragionamento che sta alla sua base. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi estendiamo la tutela, la applichiamo agli acquisti. Agli acquisti di che cosa? Di strumenti finanziari, quindi di azioni, di obbligazioni, che il più delle volte sono quotate e hanno un prezzo. Quindi il cliente che vuole dare l'ordine attraverso il promotore finanziario fuori sede fa sì che nella presenza della clausola che dovrebbe essere apposta, gli effetti dell'acquisto dovrebbero essere sospesi per 7 giorni. Cosa vuol dire? Che io compro oggi con il prezzo tra 8 giorni, e nessuno compra così, evidentemente. Questo è incompatibile con l'andamento dei mercati. Io non posso comprare le Fiat o comprare le obbligazioni generali, sto dicendo dei titoli a caso, certo, evidentemente, ad un prezzo che non conosco. Però la legge dice che gli effetti sono sospesi per 7 giorni. Ma la legge lo diceva con riferimento ai collocamenti, ai contratti di gestione, dove lì non è un problema sospendere, perché i tempi del collocamento consentono il ripensamento. Applicarlo in maniera indiscriminata agli acquisti e alle vendite su titoli quotati evidentemente blocca l'operatività, perché la banca non si prenderà mai il rischio di comprare un titolo per il cliente che poi potrebbe nei 7 giorni esercitare un diritto di pentimento, per così dire speculativo, solo perché il titolo nei 7 giorni è diminuito. La Cassazione, peraltro, su questo punto dice, sembra dare una risposta e dice: ah, ma non c'è problema, nel caso in cui il cliente eserciti questo diritto di pentimento, non sarebbe un diritto di pentimento informato da un principio di buona fede, quindi sarebbe un abuso del diritto. Ma qui la Cassazione sbaglia due volte. Primo, perché se gli effetti sono sospesi, certo, quindi la banca non può dare esecuzione. Secondo, come faccio io a discriminare il caso dalla buona fede alla malafede? Un diritto o lo si concede o non lo si concede. C'è bisogno di un intervento legislativo più ampio dopo questo intervento della Cassazione? Esattamente sì, c'è bisogno di un intervento legislativo che chiarisca la vera portata applicativa della norma, quella portata che sia compatibile con i mercati non funzionano con l'incertezza, ma solo le negoziazioni con le certezze dei dati, evidentemente. E c'è bisogno peraltro di uniformarsi a una direttiva europea che non copre questo settore, che copre la commercializzazione a distanza. Ma quando la direttiva sulla commercializzazione a distanza, cioè internet, telefono, fax, si è occupata di questo tema, ha escluso il diritto di pentimento, che lì è di 14 giorni, quando i valori immobiliari sottostanti siano oggetto di oscillazione di mercato. E quindi ha colto perfettamente il problema della speculazione che può esserci dietro il diritto di ripensamento e ha, come dire, in qualche modo ridotto la tutela dell'investitore, ma reso possibile l'operatività. Che materia difficile, mamma mia, avvocato, io sto cercando di seguirla, ma è veramente faticoso. Sentiamo qualche altro caso, Roberto da Parma, buongiorno Roberto. Salve, buongiorno, ringrazio per avermi richiamato per poter dire. Io sono di quei risparmiatori che volentieri rovisterebbe nei propri fogli per vedere se l'acquisto dell'Argentina mi dà qualche possibilità riferita a questa situazione, e chiedevo l'ultima cosa riferita a un acquisto banale di BTP. C'è un risparmiatore, perciò, che passa tramite un canale, fa un acquisto di titoli di Stato, ha un diritto di ripensamento, e il trading online, mi pare di capire, è completamente escluso da questa situazione. Aspetti lì Roberto, grazie. Avvocato Zitiello, ha ragione Roberto? Sì, ha ragione, nel senso che il trading online è escluso. E con riferimento al BTP avrebbe il diritto di ripensamento qualora desse l'ordine fuori sede, ma ripeto, è sostanzialmente inapplicabile perché le banche a questo punto priveranno questo canale di accesso, perché non le si può dare il prezzo del BTP a 8 giorni. Certo. Evidentemente lei lo vuole acquistare, quindi, oggi col prezzo di oggi. Per ottemperare a quanto ha stabilito la Cassazione, quindi se Roberto facesse oggi alla sua banca un ordine d'acquisto di un BTP di una determinata scadenza, la banca darebbe esecuzione teoricamente per rispettare questo lasso di tempo di 7 giorni fra 8 giorni? Sì, alla fine del 7° giorno. Con prezzo che magari potrebbe essere del tutto diverso da quello che immaginava il risparmiatore, per cui immaginiamo. Ma evidentemente non è accettabile, quindi rimane fermo il fatto che il risparmiatore può dare l'ordine col trading online o per telefono. Allora, Giovanni da Torino, lo ascoltiamo velocemente perché ha dato un ordine d'acquisto su un titolo molto lontano dall'Italia. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, cosa le è successo? Grazie. Sì. Sì, che io operando con una banca online, ho comprato su input di un consulente finanziario delle obbligazioni GM, General Motors, che poi sono saltate, per cui ho perso un 70% del mio capitale. Allora, posso fare qualcosa io per rivalermi con fonti della banca? Giovanni, aspetti lì, allora l'aspetti lì, anzi la salutiamo, le rispondiamo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. C'è poi Adelio, lo sto facendo aspettare da un po', ripropone un caso Parmalat ai microfoni di Salva Danai. Abbiamo poi Fabio da Salerno, tantissimi. Io pensavo che il tema fosse complicato, invece come al solito gli ascoltatori mi sorprendono e ne capiscono molto più di me. Il diritto di pentimento, una volta che si è sottoscritto un prodotto di investimento, c'è una sentenza molto importante della Cassazione a sezioni unite, 800 24 00 24, numero verde per i vostri casi che stiamo affrontando questa mattina, per capire se appunto una volta scottati da un investimento sbagliato possiamo adesso far valere i nostri diritti, oltre a tutti quelli che avevamo già, perché poi non ci siamo dimenticati di fare magari lo spettro delle tutele già esistenti per chi viene a ricevere una consulenza sbagliata, fa un investimento sbagliato per tanti motivi, in realtà diciamo c'è questo intervento che teoricamente dovrebbe rafforzare le tutele dei risparmiatori, ma non tutti sono d'accordo. Con noi stamattina l'avvocato Luca Zitiello e il presidente dell'Associazione dei Promotori Finanziari Maurizio Bufi. Avvocato Zitiello, vogliamo rispondere all'ascoltatore che ha acquistato con il trading online obbligazioni di General Motors. Non so se ha fatto lui stesso l'operazione, però dice è stata appunto suggerita da un consulente. Che può fare, visto che ha perso praticamente il tre quarti del suo investimento iniziale? Esatto, possiamo ricordare che indipendentemente dal diritto di pentimento, che copre un'ipotesi estremamente specifica, rimangono fermi le tutele che la legge consegna agli investitori, ponendo a carico degli intermediari rispetto di una serie di obblighi, cioè l'informativa, l'appropriatezza, l'adeguatezza a secondo dei casi, l'assenza di conflitto di interessi e così via, che poi in realtà sono le vere tutele del risparmiatore, tant'è che non danno, la violazione di queste regole non dà luogo a nullità, ma dà luogo a risarcimento del danno, che poi è lo strumento più appropriato per garantire un giusto compenso nel caso in cui questi obblighi effettivamente non siano stati rispettati. C'è una giurisprudenza molto articolata su questi temi, perché ricordiamoci che non tutti i casi di risparmio tradito hanno sempre dato ragione ai risparmiatori. Qualche volta la giurisprudenza si è orientata anche nei confronti chiaramente del sistema bancario, perché non è che siamo sempre tutti degli sprovveduti quando andiamo in banca, qualche volta un po' l'avidità prende il sopravvento, però è anche vero che spesso questi investimenti ci sono stati suggeriti. No, è sparito l'ascoltatore di Lecco che ha messo giù, aveva acquistato titoli Parmalat tanti anni fa. La riassumo io la situazione, se Marco non riesce a ripescare l'ascoltatore. Era interessante perché va a riesumare un caso molto vecchio, ma che ancora evidentemente ha nel nostro panorama, insomma, tante persone che ancora hanno queste zavorre in portafoglio e che non sono riuscite a risolvere le situazioni. Nella sostanza l'ascoltatore ha azioni Parmalat per le quali nessuno è stato risargito o indennizzato, perché chi investe in borsa investe in capitale di rischio, per cui non ha diritto a poche tutele. Però sosteneva che il funzionario di banca non lo aveva ascoltato quando lui stesso voleva vendere questi titoli. Avvocato Zitiello, se l'ascoltatore dimostrasse che non è stata data esecuzione all'ordine di vendita come lui aveva chiesto, può in questo caso però magari cercare di sognare una sorta di indennizzo? Ma sì, nel senso che, come dicevo, la legge attribuisce dei rimedi, interpretata correttamente. In questo caso è evidente che, intanto stiamo parlando di funzionario di banca, quindi l'operazione è avvenuta nei locali. Se il cliente effettivamente ha dato un ordine di vendita e la banca non lo ha eseguito, è un caro caso di però dovrebbe di inadempimento, dimostrarlo, quindi, appunto, perché se c'è stata una conversazione a voce di cui nessuno può dare testimonianza. Però questo è giustamente, perché questo poi fa parte della certezza degli eventi, no? Non si può risarcire. Però ci fosse una telefonata ad un call center in cui l'operatore non ha dato esecuzione all'ordine, allora questo è un caso diverso. La telefonata è registrata, quindi c'è l'obbligo di registrazione, quindi quel caso lì è coperto. Però non so se l'ascoltatore appunto può dimostrare tutto questo. Maurizio Bufi, presidente dell'ANAS, stiamo andando verso la conclusione, abbiamo ancora 6-7 minuti. Che cosa le suggeriscono tutte le testimonianze che abbiamo ascoltato fino a questo momento? Ma mi verrebbe da dire che, come osservava lei poco fa, ci sono degli episodi neppure riferibili al recente passato, ma al passato remoto, che hanno lasciato il segno per quello che riguarda i danni provocati da alcune scelte incaute nei risparmiatori, visto che abbiamo una volta di più richiamato Parmalat, Ciri o Argentina, tutte cose che più volte abbiamo evocato, sulle quali però mi permetto di dire peraltro che, e lo dico per onestà intellettuale, che i promotori hanno collocato poco, i promotori finanziari hanno avuto una rilevanza bassissima. Sono proprio gli sportelli bancari che hanno scaricato molto questi prodotti, questo voler, va detto. Ma avvocato Zitiello, mi guarda nei confronti di qualcuno, semplicemente perché è un dato di fatto. L'osservazione che mi sento di fare, recuperando il ragionamento che faceva l'avvocato Zitiello, che condivido, è che quando io parlavo appunto di ampliamento di tutele, è di per sé un fatto apprezzabile, perché vuol dire che si ha realmente a cuore un tema così importante come la protezione del risparmio. E però appunto manifestavo qualche perplessità proprio nello specifico su questa sentenza. Perché? Perché veniva detto bene prima, qui siamo in presenza di un approccio tipicamente teorico / burocratico, quasi una sorta di assurdo giuridico, termine che abbiamo anche evocato per altre situazioni, ma questo veramente è più calzante, e dall'altro abbiamo un'operatività del mercato mercato, quindi degli attori del mercato, quindi dell'industria, che sembra palesemente cozzare con questo approccio. E quindi noi dobbiamo superarla, questo atteggiamento eccessivamente protettivo, quando probabilmente questa protezione, come veniva ricordato, non fa esattamente o non rientra neppure nelle aspettative dello stesso cliente, il quale molto spesso invece ci chiede proprio la prontezza e la rapidità nell'esecuzione. Infatti. Ma perché? È proprio perché sa benissimo, se lo sa, come di solito accade, che una variazione significativa di alcuni prezzi può comportare o un danno o ovviamente un vantaggio, ma proprio per questo si attrezza o direttamente o indirettamente tramite un operatore qualificato per prendere le scelte più consapevoli. Quindi veramente siamo un pochino distanti dalla realtà, Fabio, e questo sì, è quello che va in qualche modo sanato. Fabio da Salerno, rapidissimo, poi andiamo con qualche altro esempio con Luca Zitiello. Fabio, buongiorno. Sì, salve, buongiorno, un saluto al nostro presidente, sono un consulente finanziario. Allora è molto interessante quello che ci deve dire, perché io vedo già le anticipazioni, detto da un consulente, dica. Cioè, in effetti, a parte il discorso dei titoli, come diceva il presidente, noi difficilmente consigliamo ai clienti, perché andiamo più su un discorso ampio di consulenza. La rabbia viene da parte nostra quando le vittime, noi e i clienti, a volte dobbiamo vendere dei prodotti che alcune categorie, tipo l'ex ISVAP o la stessa Consob, fanno passare, e all'interno in effetti ci sono già dei sintomi di spazzatura. Molti prodotti, addirittura dei fondi comuni oppure delle assicurazioni con dei sottostanti vergognosi. Fabio, lei chiaramente si costruisce il suo stipendio anche attraverso il collocamento di questi prodotti. Devo dire che però l'etica professionale vi permette anche di dire no a tutto questo. Poi mi rendo conto che vi dovete scontrare direttamente con la casa che vi dà il mandato a promuovere i propri prodotti. Grazie per la sua testimonianza. La devo salutare rapidamente, perché in 4 minuti con Luca Zitiello volevo fare qualche esempio per capire concretamente cosa succede con questa sentenza. Allora, io domani mattina vado dal mio promotore e in sede nella società, no, viene a casa mia, facciamo che venga a casa mia, e voglio sottoscrivere un fondo di investimento. Tra 3 giorni scopro che questo fondo di investimento è eccessivamente esposto sui mercati emergenti, non lo voglio più. Che cosa posso fare? Può sicuramente pentirsi, perché il meccanismo è già rodato, siamo nell'ambito vero applicativo. Perfetto. Della norma, quando si dà l'ordine di sottoscrizione dei fondi, quell'ordine, come dice la legge, rimane sospeso per 7 giorni. Mm-hmm. È chiaro. Posso esercitare il diritto di recesso senza dare spiegazioni? Assolutamente. Basta. No, è ad nutum, diciamo, proprio un diritto di pentirsi in sé. Ed è un diritto di pentimento vero, perché siccome il prezzo sarà quello fra 7 giorni, quando l'investitore si pente perché, indipendentemente dal prezzo, perché quello strumento non lo voleva, non lo vuole, e questo siamo nell'ambito applicativo sano, esatto, della norma. Perfetto. Invece se voglio un'obbligazione, no, se il consulente mi propone un'obbligazione bancaria, anche lì scopro che quella banca magari è a rischio, è una banca straniera, non italiana, e decido appunto di non sottoscrivere più questo prodotto di investimento. In questo caso che succede? Dopo la sentenza dovrebbe succedere che l'ordine ha appunto una clausola di pentimento, e quindi anche in quel caso lì il prezzo dell'obbligazione e l'effettivo acquisto dell'obbligazione è rimandato all'esaurimento del periodo dei 7 giorni. Quindi avverrà che se il cliente vorrà soggiacere a questo tipo di regola e quindi avere un prezzo aggiornato ad 8 giorni, lo farà, e se si pentirà nel frattempo si pentirà di un acquisto che non ha ancora compiuto. Più complicato, allora, immagino, alla luce di tutto quello che ci ha detto fino a questo momento, il caso di una sottoscrizione di un BTP italiano. Io decido oggi di volerlo sottoscrivere, però ecco, nel corso della settimana vedo che lo spread riprende ad andare sulle montagne russe, mi spavento e non voglio più dare seguito a questo investimento. Che succede in questo caso? Ma in realtà succedono le stesse cose, cioè il diritto di pentimento si può applicare solo in caso in cui il contratto abbia sospesi gli effetti per la stessa durata del periodo in cui io mi possa pentire, perché il diritto di pentimento deve prescindere dall'andamento del titolo, ma deve essere in merito al tipo di investimento, e quindi tutti questi casi vengono equiparati. Il problema vero quindi qual è? Che questa sentenza, a mio modo di vedere non corretta, si sostituisce al legislatore, e qui è l'errore, crea la norma, non interpreta la norma, ma crea la norma. Qualcosa di totalmente nuovo. Peccato che crei una norma sostanzialmente inapplicabile, perché gli investitori non potranno fare delle scelte con la sfera di cristallo, certo. E quindi capire se uno strumento finanziario andrà bene o no a loro in funzione dei corsi di mercato da lì a 8 giorni. Allora ci fermiamo, chissà se abbiamo chiarito un po' le idee ai nostri ascoltatori e gliele abbiamo complicate. Io direi che il suggerimento finale che possiamo dare in 10 secondi, Maurizio Buffi, è pensateci bene a tutte quelle che sono le vostre esigenze prima di mettere la firma su qualsiasi contratto, e credo che anche il presidente dell'ANASF questo lo possa suffragare. Presidente, sì, è evidente, sì, che va, sì, mantenuta la libertà degli operatori, come va mantenuta la libertà dei clienti di poter aderire alle proposte che vengono, alle, certo, quali vengono sottoposte. Probabilmente su questa vicenda non abbiamo ancora visto scritta la parola fine. Grazie all'avvocato Luca Zitiello, che peraltro è stato anche ampiamente intervistato da Plus 24 del Sole 24 Ore, che a questo argomento ha dedicato la sua storia di copertina sabato 15 giugno. Grazie a Maurizio Buffi, a tutti gli ascoltatori, a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori in assistenza tecnica. A domani. Buona giornata.